positivo da qui fino alla fine. Sì, un'ultima cosa, prima il mio assistente diceva: io vorrei, fossi un giocatore, vorrei essere allenato da Colantuono, perché entri in campo con una carica pazzesca, secondo me, e perché è uno che ha le idee chiare. C'è un altro ascoltatore, c'è un ascoltatore invece, Damiano da Roma: quando potremmo ammirare un allenatore come Colantuono in panchina nella Roma, un tifoso e vero professionista? Beh, Zeman non vive, la Roma non vive un grande momento, eh? Beh, io non mi permetto di entrare in altre case, ho già tanti problemi nella mia di casa. Ma quali? Ma dove stanno? Dobbiamo toglierci il prima possibile da una situazione che è quella della salvezza. Vorrei raggiungere presto questi 40 punti e poi proiettarci, magari senza fare voli pindarici, però proiettarci magari a qualcos'altro, per cui dobbiamo remare ancora parecchio. Tanto avete già steso Milan, Napoli e Inter. Beh sì, questo ci fa piacere, perché comunque dimostra che la partita ce la giochiamo, comunque non stiamo a speculare su nulla, anche perché non abbiamo una mentalità per farlo, e quindi questo mi fa molto piacere. Tanto con le grandi, io lo dico sempre, con le grandi si giochi solo per difenderti, prima o poi perdi. Sì, verissimo. Devi difenderti se ti costringono loro, ma se puoi offendere, se puoi creare qualcosa, io credo sia meglio, perché alla fine non è detto che poi non possano capitare serate come quella di ieri sera. Tanto la vogliono, secondo i nostri ascoltatori, il Milan, il Bologna e una mezza dozzina di altre squadre di Serie A. Complimenti. Ma io ringrazio tutti, però sto bene da questo. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Grazie a Stefano Colantuono. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per intervenire in Tutti Convocati, e poi parleremo ovviamente di questa crisi senza fine del Milan, che pure ha confermato nella notte, summit notturno, Galliani Berlusconi, questo mostro a due teste. Alla fine Allegri è stato confermato senza condizioni, ma perché? Fiorentina di ogni squadra. Tu sei la regina, papà papà. Fiorentina, ogni squadra ti voglia regina. Beh, Montella a cantare non è bravissimo, a fare allenatore sì, però la Fiorentina di Montella, 24 punti in classifica, a 4 lunghezze dalla miglior viola, quella di Cesare Prandelli del 2005-2006, primo anno a Firenze. A proposito, vi consiglio di seguire su Twitter In Franchezza, in modo da trovare un sacco di notizie, di numeri, di cifre, di curiosità sulle giornate di campionato. Ma naturalmente vi consiglio anche il nostro Twitter, perché vi voglio far partecipare, perché vi voglio tutti convocati. 800 24 00 24. Sentiamo se Montella cucina meglio di come canta. Questo è facile, va messo a pezzo di carne abbastanza alto sul mattone ardente con la legna ad ardere, e si cuoce a bistecca la Fiorentina al sangue, rigorosamente al sangue. Beh, la Fiorentina la sa fare, ha cotto anche il Milan che mi sembra onestamente ridotto ai minimi termini, soprattutto nella sua anima più... così più vecchia, da Pato a Boateng a Robinho, mi sembrano davvero giocatori che ormai mostrano la corda, così come mostra la corda Massimiliano Allegri, e mi sembra Milan un mostro a due teste. Non so se le teste siano quelle di Galliani e Berlusconi, o forse quelle di Pato e di El Shaarawy, cioè El Shaarawy, che è quello che sta tentando, insieme a Bojan, insieme ad Emanuelson, insieme a questi che hanno ancora qualcosa dentro, di raddrizzare la barca. Probabilmente hanno bisogno di nuove idee semplici e di giocare come una squadra normale. Secondo me non può più essere Massimiliano Allegri consumato dalla sfiducia, dai troppi tentativi, dai troppi cambi di modulo falliti, ad insegnarglielo. Eppure Allegri, come ha detto ancora stamattina Galliani, è stato confermato. Appena il presidente è atterrato mi ha chiamato, ci siamo visti subito, abbiamo parlato un bel po', poi abbiamo chiamato Allegri 11:30, mezzanotte stasera, abbiamo parlato con lui, e alla fine di tutto questo il presidente Berlusconi e il sottoscritto appunto hanno riconfermato la fiducia del nostro allenatore. Tutto qua. Sì, il presidente nel suo tempo diciamo che può dedicare assolutamente, vuole stare vicino alla sua creatura, quindi che è il Milan, e venerdì verrà a spronare giocatore per giocatore prima della partenza per Napoli e andiamo avanti con Allegri. Ma non preoccupato, certo non siamo felici evidentemente, ma insomma abbiamo valutato tutto e abbiamo pensato che non è che cambiando allenatore si hanno certezze di cose diverse. Poi Allegri ha fatto bene in questi 2 anni, insomma la decisione è questa. La decisione è questa, contenti loro, contenti tutti, i tifosi del Milan magari avranno qualcosa da dire. Possono farlo naturalmente, 800 24 00 24. Tutti convocati qui in questo libero spazio sportivo radiofonico. Alessandro, Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere, secondo lei, quali sono... Montella ha detto non poniamoci limiti. Si parla di Champions, di Europa League o anche addirittura di... Perché la Juventus, noi insomma, ha perso con l'Inter e poi siamo stati forse... Guarda, posso dare un consiglio a lei e a tutti i fiorentini? Posso? Divertitevi. Divertitevi, sì. Perché questa è una squadra divertente, non... secondo me non sarebbe corretto mettere degli obiettivi, fissare degli obiettivi, mettere dei paletti, perché è una squadra che gioca molto bene, con grande spensieratezza, con idee molto chiare, con giocatori freschi, di talento. La Fiorentina non è una squadra da scudetto, quindi toglietevelo dalla testa, questo no. Può competere con il Napoli e con l'Inter, forse. Può certamente divertirsi lungo tutta questa stagione, cosa che a Firenze non accadeva da un bel po'. Perché togliersi il divertimento fissando degli obiettivi magari irraggiungibili? Mauro, Massa. Buongiorno. Buongiorno a lei. Un commento in riferimento alla partita Atalanta-Inter. Sì. Io sono un interista, volevo dire che come interista non mi aspetterei grandissime cose dall'Inter, perché non ha una squadra di perlomeno all'inizio del campionato nessuno pensava che avrebbe potuto fare chissà che, e sì, tutto sommato quello che arriva è oro colato. Ieri una squadra assolutamente rimaneggiata con... Allora l'Inter, Mauro, l'Inter non può fare a meno di Samuel, meno di Ranocchia, se no il muro dietro si sbriciola, ed è una squadra che si regge su questi equilibri, che presidia il centrocampo e che cerca di saltarlo magari spesso per innescare 3 punte molto, molto forti e molto diverse, che però mi sembra stiano mostrando un po' di stanchezza. Allora, secondo me, se l'Inter riesce in questo modo a stringere i denti, ad arrivare al mercato di recupero, e se Moratti ha voglia di investire un po' di euro per allungare la squadra e darle un po' più di qualità, perché insomma, il parco attaccanti è veramente ridotto ai minimi termini, un paio di giocatori forti servono, allora l'Inter può star lì fino alla fine. No. La stessa cosa, nel senso che come è messa l'Inter, quello che fa mi sembra più che buonino, insomma. Sembra ottimo. Non più che buonino, ma ottimo fino a ieri. Dopo 10 vittorie consecutive può starci anche uno scivolone. La squadra mi sembra che stia pagando comunque lo sforzo e di queste 10 vittorie e di trovare un'identità che è stata trovata. Adesso credo servano i giocatori, insomma, secondo me adesso per l'Inter si apre la stagione in cui bisogna continuare a fare punti e aspettare il mercato di gennaio. Poi non ho idea di quali siano le intenzioni del club per il mercato di gennaio, magari nessuna. Davide, provincia di Pavia, 800 24 00 24. E poi naturalmente la top 3 della settimana, le dichiarazioni più belle di questo weekend, che ha normalizzato un po' tutto, no? Perché una settimana fa, tra mille polemiche, stavamo parlando di rivoluzione, questa settimana tutto torna nella normalità. La Juve ne segna 10 in 2 partite, grida ai bambini dietro, ragazzi tutti in fila, guai a chi si muove, soprattutto all'Inter che aveva alzato la cresta, tutto normale che la Roma perda il suo derby nel modo in cui l'ha perso, con De Rossi che è stato tirato per i nervi e per la maglia per tutta la settimana e ieri ha risposto con un cazzottone in faccia a Mauri. Mi sembra una squadra con un'anima molto complicata. Mi sembra che non è questione che Totti faccia o non faccia i gradoni perché è vecchio, come ha detto Zeman. Mi sembra una saldatura molto difficile tra le idee integraliste di Zeman e la vecchia guardia. normale appunto che il Napoli abbia ricominciato a correre dopo essere, dopo aver capito sul campo della Juventus che è troppo forte quella Juventus e quindi continua la sua marcia di rincorsa con un Cavani straordinario. Tutto normale anche che il Milan perda con la Fiorentina. Il weekend della normalizzazione. Davide. Sì, ha fatto una disamina direi perfetta. Io però polemicamente le dico, è tutto tornato così tanto normale dopo una settimana di un gran can-can, e stranamente io vedo la politica attuata dalla società Juventus di non fare le conferenze stampa prima della partita come una pressione sui giornalisti per evitare che si parli di lei. Per cui questa settimana abbiamo avuto la rielezione di un Nicky assolutamente inadeguato visto tutto quello che era successo, ma che faceva piacere al potere della restaurazione, e i giornalisti ritornati nelle righe, per cui non si deve più discutere dei falli di mano in area perché tanto una squadra stravince, ma il regolamento non ha più nessuna importanza. Io sono dell'idea che si discute delle gomitate in faccia, per cui un giocatore esca con la faccia completamente insanguinata senza che tre arbitri vedano niente, e bisogna stare zitti e dire che tutto è normale, che tutto va bene, perché tu devi entrare nella normalità. Non è normale niente, così come non è vero che non se ne discute, anzi chi sta zitto ha sempre torto e quindi legittimo ogni tipo di interpretazione. Questa è la mia convinzione. La Juventus, non essendo costretta per regolamento alle conferenze stampa prepartita, ha scelto di stare zitta, e secondo me chi sta zitto ha sempre torto. Quindi questa è la mia idea. Allora, un po' di voci della domenica. Il podio domenicale lo cominciamo dal numero 3. Lotito è un abbonato a questa rubrica. Sentiamo. Porta avanti una progettualità di cambiamento di questo sistema calcistico che è basato, ho detto, su attestamenti consuetudinari. Ho sempre detto consuetudo, magna vis est, la consuetudine è diventata norma, e la norma è quella che il patron nel tempo ha sempre messo i soldi per risolvere tutti i problemi economici. Beh, c'è anche, visto che siamo in tema di derby, al numero 2 un coro. Ieri c'è stata una sorta di blackout, di mini blackout all'Olimpico. Olotito paga la bolletta, mi sembra perfetto, mi sembra uno di quei cori che mi piacciono, che mi fanno ridere. Ci fermiamo, magari non fanno ridere quelli che hanno la coda di paglia, ma questo non è un problema. Ci fermiamo per la borsa e poi andiamo al numero 1, perché attenzione, abbiamo risentito la voce, non dall'oltretomba ma dall'oltrevetro di Antonio Conte, che ha parlato via chat con i tifosi, ha detto una cosa che mi ha fatto un po' preoccupare per lui. Ragazzi, ve lo devo dire, non sono assolutamente soddisfatto di voi, perché avete chiamato in tanti, ma insomma è lunedì, possibile che se non c'è un casino arbitrale non lo sentite nella pancia la voglia di un intervento per parlare di sport, di tutto lo sport che volete, perché questo è il vostro spazio. 800 24 00 24, numero verde libero per intervenire. Allora, vi ho detto che sono un po' preoccupato per Antonio Conte, ha parlato in chat con i tifosi, è tornato a farsi sentire l'uomo che vive dietro il vetro. Sentite cosa ha detto. Cioè, la sera quando guardo la televisione, io c'ho una panchina di fronte il televisore e mi siedo, e ogni tanto faccio venire anche qualcuno dello staff, perché poi devo litigare con qualcuno, ecco, quindi... Sono seriamente preoccupato per quest'uomo, speriamo che la squalifica finisca presto. Si è fatto montare la panchina davanti al televisore e vede le cose con il suo staff, così si arrabbia anche magari quando guarda un film. Marco da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno gente. Buongiorno. Senta, io sposo del Milan dal 1963. Sì. Ho iniziato a seguirlo dalla finale di Wembley, da allora non ho più smesso di seguirlo come tifoso, come sportivo. Ne ho visto di ogni, ho avuto modo di vivere momenti negativi, tempi di Farina, i tempi di Butichi, Duina, Compagnia Bella. Sì. E la fortuna di avere vinto per un sacco di anni. Un presidente come Berlusconi che ci ha portato a vincere quello che abbiamo vinto. Sì. Detto questo, da un po' di anni a questa parte il nostro caro amato presidente, per motivi variegati che non sto qui ovviamente a discutere, ha deciso di staccarsi un attimo da questa sua creatura, fondamentalmente smettendo di investire come ha sempre fatto. Sì, queste sono tutte cose, questa è cronaca, quasi storia, no Marco, mi pare. L'attualità dice che non mi torna il fatto comunque con un Milan che non riesce a ritrovarsi nella maniera più assoluta, l'impossibilità di adottare la soluzione sempre sbagliata ma d'emergenza, che a questo punto mi sembra difficilmente ritardabile, di trovare una nuova guida tecnica, perché mi sembra che Allegri le abbia provate tutte, forse anche troppe ne ha provate, continuando a cambiare moduli, continuando a cambiare giocatori. Questo è un Milan normale, è una squadra normale che ha bisogno di normali certezze e di andare in campo un po' più sereno, quindi mi sorprende appunto il fatto che ancora nella notte Allegri sia stato confermato. E sinceramente, posso dirvi la verità, mi sfuggono anche le ragioni di questo, ma tra poco torniamo a parlarne anche con voi se volete. 800 24 00 24, c'è chi non vorrebbe più Ferrara. A proposito, momento pazzesco per le squadre genovesi che si apprestano a vivere uno dei derby più, forse più tristi della storia, perché 12 sconfitte consecutive per i genovesi, 7 della Sampdoria, 5 per il Genoa. Peggio di così si muore. Ma intanto il gol, no, non si muore, si può sempre star peggio, però. L'Oscar del gol della settimana, sentiamo. And the Oscar goes to... sul fondo contro Maresca, arriva anche Munari, palla indietro, il tiro e gol! Palermo in vantaggio, Dybala! Allora adesso per Brienza, buono per Dybala, in posizione di gol, Dybala! Paolo Dybala, grande gol! 2-0 per il Palermo al 26esimo minuto. Credo che il primo sia stato più difficile perché c'erano molti giocatori in mezzo all'area. È stato un assist splendido di Brienza che mi ha trovato perfettamente. Per fortuna il pallone è finito in rete. Avevamo bisogno di questa vittoria. Sapevamo che erano 3 punti non facili da conquistare, ma importantissimi per risalire la classifica. Siamo felici e dedichiamo il successo ai tifosi. Tu sei bravo, tu. Ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io, tu hai un dono. Doppietta, non ha nemmeno 19 anni, quindi questo è, sì, può essere davvero campionato dei giovani. Caro Francesco da Milano, gli ascoltatori chiamano, le assicuro che ne chiamano davvero tantissimi ogni giorno, tanto che facciamo fatica a dare spazio a tutti, ma lo faremo col tempo. 800 24 00 24, tutti convocati qui, compreso Enrico Curro, inviato di Repubblica. Ciao Enrico. Ciao Carlo. Senti, ma dietro la conferma di un Allegri ormai indifendibile, che cosa c'è? C'è il fatto che non è stata trovata un'alternativa, c'è il fatto che il Milan ritiene che le alternative sul mercato non siano all'altezza di cambiare la situazione, e c'è il fatto che il Milan ha un contratto con Allegri fino al 2014 e in questo momento, come sai benissimo, c'è l'austerity totale. Sì. E certe spese non sono più sostenibili. Detto questo, la parola indifendibile va estesa se la vogliamo applicare ad Allegri, va estesa secondo me anche un pochino alla società, nel senso che non è che Allegri sia l'unico responsabile di questa situazione. No, certamente non lo è. Allegri però, sai benissimo, è stato esautorato in estate, è un allenatore che a Berlusconi non piace più, i giocatori lo sanno benissimo, al di là delle dichiarazioni di Prammatica. Mi sembra un Milan con l'anima spenta in quelli che c'erano negli anni passati, in cui si è vinto lo scudetto e si è sfiorato il secondo scudetto, e forse il Milan di Allegri è finito con la Juve che vinceva lo scudetto al posto suo. C'è un'altra anima nel Milan che è più viva, che è quella di Bojan, di El Shaarawy e di pochi altri che possono dare ancora qualcosa ad una squadra normale. Però Enrico, in altre situazioni e in altri Milan si era cambiato allenatore, si era scelto il traghettatore con esperimenti più o meno felici, e ne ricordiamo tanti, dal Sacchi bis al Capello bis a Cesare Maldini. In questa situazione invece no. Sai Carlo, io credo che ci sia anche una sorta di senso di colpa, perché io credo che Galliani e lo stesso Berlusconi, che peraltro non si è interessato moltissimo del Milan negli ultimi tempi, siano perfettamente consci del fatto che hanno consegnato ad Allegri una squadra che non è molto competitiva, al di là delle dichiarazioni un pochino incaute di quando Galliani aveva parlato addirittura di scudetto. E quindi, partendo da questo presupposto, è molto probabile che loro sappiano anche che sarebbe difficile pensare a un traghettatore che possa risolvere d'incanto la situazione o migliorarla, e sperano, continuano a sperare che le cose migliorino. Però qui, a forza di sperare, il Milan ha già perso 6 partite su 12 in campionato, e se non sta attento rischia anche di uscire dalla Champions, certo. Perché quella poi è la vera data fatidica, è la Champions, perché la Champions vuol dire immagine internazionale e vuol dire soldi per aggiustare in inverno almeno un pochino questa squadra, che ha comunque, come hai detto tu, qualche valore, non è una squadra totalmente a terra. No, certamente ha trovato per strada El Shaarawy, che a guardare i gol non fa rimpiangere nemmeno Ibrahimovic. Enrico, per finire, un'altra squadra che mi sembra che abbia l'animo un po' spezzata è la Roma. Non hai anche tu questa impressione? La Roma, secondo me, è in una situazione un po' diversa dal Milan, nel senso che la Roma era stata forse più chiara in quest'opera di ricostruzione, non aveva contrabbandato, insomma, tutto sommato io credo che i tifosi della Roma pensassero giustamente a qualcosa di più di quello che hanno ottenuto, ma mai avessero pensato allo scudetto, e né qualcuno ha parlato di scudetto. A Roma c'era il totem Zeman, questo è stato forse l'equivoco di inizio stagione, cioè addossare a Zeman così il ruolo di quello che poteva improvvisamente e magicamente trasformare la Roma. Così non è stato, non esistono secondo me più nel calcio attuale personaggi di questo tipo. Dietro ogni grande risultato di ogni grande allenatore c'è sempre comunque una grande squadra, però la Roma ha secondo me 3, 4, 5 giovani giocatori in prospettiva di valore assoluto. Di valore assoluto, sono d'accordo. Grazie Enrico, buon lavoro. Ciao, a voi. Grazie. Allora, prima di tornare a parlare con gli ascoltatori, 800 24 00 24, una finestra vocale sugli altri sport. Manassero, Stoner che ha chiuso la sua carriera, e poi Scariolo che ha avuto parole molto dure, ma giustamente, per la sua Milano inguardabile. Sentiamo. Andiamo! Vince Matteo Manassero. Grande! Vince la quarta edizione del Barclays Singapore Open. Dà ancora più soddisfazione sicuramente, nel senso che è stato un playoff, è stato il mio primo playoff del prima della mia carriera. Con Ostuisa, un giocatore un giocatore fantastico come lui, e quindi ha, diciamo, ha dato un valore aggiunto a una vittoria che già era per me e per tante altre cose importantissima. Ho affrontato la gara con la soluzione, quella più sicura, nel caso in cui dovesse magari tornare a piovere, ma non è stata poi la scelta giusta. In parte sono anche deluso, in quanto sicuramente questo weekend avrei avuto, diciamo, avere delle opportunità anche migliori sull'asciutto, però comunque raggiungere il podio nell'ultima gara, bene, devo essere contento. È il mio modo per dire grazie a tutta la mia squadra, alla mia famiglia, a tutti coloro che mi hanno sostenuto nel corso della mia carriera. Offensiva eccellente, abbiamo fatto una partita difensiva ignobile. Qualunque altro commento può essere aria fritta, questo è il senso del discorso. Stiamo giocando sempre meglio in attacco, stiamo muovendo la palla, percentuali di tiro buone, passandoci eccetera, purtroppo non cresciamo in difesa, e questo è un handicap grosso. Manassero, Stoner e Scariolo, che parla di difesa ignobile, ma d'altra parte come fai a prenderne 105 in casa da Venezia? Buona squadra, ottima squadra, però Milano mi sembra un gambero. Un passo avanti, anche importante la vittoria di Siena, due passi indietro con la sconfitta con l'Olympiacos, con questa sconfitta che sembrano quasi tre. Intanto Varese continua a vincere e a giocare la miglior pallacanestro d'Italia in questo momento. Torniamo agli ascoltatori. Marco Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Velocissimamente, io credo che anche Scariolo abbia grandi responsabilità nello schifo che sta facendo Milano, perché non ha un gioco. E quindi a questo punto mi butterei lì un suggerimento. I Lakers hanno silurato qualche giorno fa Mike Brown perché voleva dare un gioco alla Princeton Offense, ai medesimi, che con le star di cui la squadra di Lakers è piena non può funzionare, perché è una schema da collettivo per mediocri. Sì. Io fossi nelle due squadre di Milano, ingaggerei il tecnico dei Lakers silurato e gli darei un bel incarico congiunto per il Milan e per l'Armani Jeans, perché essendo squadre di mediocri, quindi Princeton Offense non so quanto possa funzionare per il Milan, per tutto due, così c'è anche risparmio di budget, perché lo stipendio glielo pagano i Lakers e si divide l'incarico tra Milan e l'Armani Jeans. Stipendio, per la verità, molto più alto di quello di Scariolo. No, è chiaro che Scariolo in questo momento è in discussione, ma come lo era un anno fa, quando i risultati non erano molto diversi da questi, se ci ricordiamo. Continuo a ripetere che Milano ha un roster, ha un parco personale di tutto rispetto. Continuo a ripetere che Milano non ha un leader emotivo. L'unico che ha queste caratteristiche si chiama Gianluca Basile, ma viene usato col contagocce ed è ai margini, mi pare, di questa squadra. Continuo a ripetere che se al posto di Omar Cook, tanto per farne un nome, non me ne voglia, tutte le volte lo dico, ci fosse Spanulis, sarebbe un'altra squadra e non beccherebbe, per paradosso, 105 punti in casa da Venezia. Massimo, Napoli. Salve, buongiorno. Buongiorno. Senta, la ringrazio per l'opportunità che mi ha dato. Volevo fare una domanda. La sento spesso per radio, a volte sul suo intervento, e mi dice sempre che la Juve vince questo campionato. Le ricordo che la Juve deve fare ancora il ritorno a San Paolo. Sì. Ha vinto con il Pescara 6-1, ma con il Pescara, con tutto il rispetto. Massimo, con tutto il rispetto, però io non ho certezze in tasca. Io dico che la Juve è la più forte. No, vabbè, mi scusi, però l'ho ascoltato anche altre volte su altri ascoltatori da Napoli che l'hanno chiamato proprio su questo fatto. E lei è sempre convinto che la Juve vincerà questo scudetto tranquillamente, che il Napoli sia tagliato fuori. Io aspetterei un po' prima di dare un giudizio definitivo. Sì, sì. No, ma io aspetto fino all'ultima giornata, e anzi, ecco, i pronostici non li becco mai. Ma il Napoli continuerà a correre lì, non, nessuno si offenda, però questo scudetto, se la Juventus lo butta via, ci possono essere Napoli ed Inter che magari lo raccolgono dalla finestra. D'altra parte è successo anche l'anno scorso con il Milan, piglia tutto, non doveva esserci gara, invece poi è andato in maniera diversa. Continuo a pensare che per solidità, completezza, organico, eccetera, la Juventus sia la squadra più forte. Poi che vincerà questo scudetto, io non lo so, io spero tanto che, insomma, che venga fuori la sorpresa, che venga fuori la sorpresa, perché sarebbe divertente. Gabriele Ascoli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Niente, io volevo parlare un po' della Roma, ma più che altro di De Rossi, su quello che è successo ieri, ma un po' che sta succedendo da quest'estate, da quando è arrivato Zeman. Le volevo chiedere se il mio ragionamento poteva essere un po' logico. È arrivata la nuova proprietà, ha scelto Zeman e De Rossi è andato subito in discussione, c'è stato questo scontro. Io non vorrei che fosse Zeman fosse un po' un parafulmine della società per trovare una scusa per vendere a gennaio De Rossi quello che non ha potuto fare quest'estate, anche rimettendoci a gennaio qualche milione di euro. Questa mi sembra, Gabriele, questa mi sembra un'interpretazione un po' cervellotica, sinceramente, perché non serve prendere Zeman per provocare uno scontro con De Rossi in modo da poterlo vendere, mi sembra tutto un po' macchinoso. Io sono dell'idea che De Rossi andrà via da Roma a gennaio, ho questa idea. E ho anche la sensazione di una squadra in cui le due anime, cioè quella del passato e quella dei giovani che seguono l'integralismo di Zeman, che non riescono a saldarsi. Allora signori, da domani e per questa settimana lascio il microfono a Giovanni Capuano, così sarete tranquilli. Davvero! Molto bene, molto bene. Domani, cioè per questa settimana, c'è Giovanni Capuano, ma anche se non mi sopportate più, io lunedì prossimo sono qui e per restarci per tutta la stagione o fino a quando mi caccerete via, insomma. Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Beh, se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo.